20 Eccoci qua. Ma davvero? Dal vivo. Dal vivo. Dal vivo. Con una telecamera. Con una telecamera. A mo' di Avatar. Quanti applausi, quanti applausi. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera da Riccardo Cremona, Alessio Strazzullo. Posso presentarmi da solo? Oppure ti offendi se io ti presento? One man show. Hai mai visto al Nobel uno presentarsi da solo? Uno viene presentato. Il Nobel è un'altra cosa. Sei sempre la solita prima donna. Ora che siamo in radio e in video ancora di più, vedo che ti sei anche truccata per questo motivo. Stai benissimo. Hai una luce diversa oggi nel viso. Non so perché, è una luce diversa. Ma voce diversa, non lo so. Comunque, Radio 2010, mi sta stretto lo stivale. Puntata numero 14. Ma hai visto quante puntate siamo riusciti a fare? Non avrei giocato 2 euro sulla Bravo, vedo riuscita. Questa cosa non me l'hai detta all'inizio del progetto. No, perché dovevo motivare l'intero gruppo. Sei di un lavoro, paraculo. Quindi non ho avuto il coraggio di dire, ragazzi, io non ci do 2 settimane di tempo. Sei un paraculo. Invece 14 puntate. Mamma mia. Siamo un adolescente. Mi farei un applauso da solo. Tra l'altro, che cosa? Guarda, guardandoci in video, penso sempre di più che dovremmo aprire una televisione invece che una radio. Sì, vabbè. Questo è come prima. Facciamo la televisione, ma non ci credi, fondamentalmente. Come prima, più di prima ti amerò. È chiaro. Vabbè, allora, comunque, salutiamo innanzitutto il nostro mitico DJ. Ciao DJ, come stai? Buonasera! Grandissimo. Lui anche col video acceso decide di non farsi vedere. Tubo catodico, lui lo sfonda. Sì, tecnicamente questo è uno schermo a LED più che un tubo catodico. Però, Madonna, una santa pignola proprio, pignola. Vai, dai informazioni dove possono acchiapparci. Ah, c'è un po' di... Sì, e certo. Vederci. Allora, innanzitutto possono seguirci e scriverci su livestream.com. L'hai detto benissimo. Però ho provato tutto il pomeriggio a dire fatto, questo. Visto che siamo anche in video, perché non li fai a gesti come quella del TG2? Forse capiscono meglio. Io non prenderei in giro con le persone. Nessuno, no, tu prendi in giro te. Incazzose. Allora, ripeto, livestream.com/radio2010. C'è una bella chat dove potete scrivere senza alcun problema. Senza alcun problema. C'è gente che passa dietro. Cose ovviamente molto preparate. Non ho parole. Che ci ha preso il controbalzo. Comunque, iniziamo, dai, rompiamo il ghiaccio. Notizia di politica. Scusi. No, non per altro. Però la gente sei. Ok, dai, veloce. Comunque ho sentito una cosa, una maglietta orribile. No, invece è una maglietta meravigliosa. Non so se hai mai visto il video di Moby dove c'era quell'omino. Ecco, questo è l'omino. Dato che non mi interessa, ti risponderò no. No, ok, perfetto. Però sì, comunque. Andiamo avanti, notizia. Salutiamo tutti, vedo ben... Sette persone, scriveteci Grandi. Qualcosina, a parte ovviamente Jenny e Alessandro che ci stanno seguendo e ci scrivono. Staff, diciamo, sette sì. Di cui due sette sono di cui roba due nostra. Dello staff, ma stiamo andando piano. Allora, la prima notizia parla di una lepre attentatrice. Sì. È presente come faceva Zelig? Attentato! Sì. Che è successo? Praticamente a Linate, mentre un aereo stava partendo per andare verso Roma, che succede? Con a bordo molti parlamentari del PDL e della Lega. Addirittura. Una lepre bolscevica. Poi erano insieme. Sì, vabbè, ormai stanno tutti... Ma dopo parliamo di qualcosina che forse... Vabbè, questa è la doppia faccia della politica. Comunque, sull'aereo stavano insieme. Forse non condividevano il bracciolo tra le due, però... Chissà chi si è messo vicino al portellone di emergenza. Tu sai che per sederti lì... Sì? Ti chiedono se conosci le lingue, se hai paura di questo senso di responsabilità, di dover aprire il portellone, dover catapultare la gente giù. Secondo me Calderoli si è messo. Non so se c'era, però secondo me si metteva lì. Secondo me Calderoli ha fatto mettere qualcun altro lì vicino, perché non lo vedo proprio un... Come cuore, sei satirico. Un cuore temerario. No, ma pungente. Pungente e satirico come non mai, proprio come una giovane ragazza che tu sei. Allora, andiamo avanti. Spero che tu non ti offenda. No, cosa. Siamo solo in diretta. Allora, praticamente, che succede? Una lepre, un'intelligentissima e furbissima lepre, si è fiondata verso l'aereo, è stata risucchiata dal motore dell'aereo E si è sentito praticamente panico perché e poi fa male, cioè... Naturalmente panico perché attentato terroristico, cosa del genere, in verità una lepre, non credo comunista, non credo. Chi può dirlo, chi può dirlo? Come la riconosce una lepre comunista? Ormai è morta, non è che puoi chiederle. Eri comunista. Poi comunque i comunisti non è che ce ne sono più tanti. E forse la lepre, forse lepre comuniste ce ne sono ancora. Forse nel mondo animale, forse non lo so. Comunque ha bloccato l'aereo, panico e paura, tragedia. Ovviamente, ci credo io. Che cosa ci credo? Metti sei una persona che sta su questo aereo, già sei circondato da gente leghisti, PDListi. Dici tu, qualcuno a questi qua vuole ammazzarli. Gli hanno lanciato una lepre killer. Famosissima, utilizzava. No. Come no? Una lepre in fiamma lanciata. Mani che mi toccano. Di un po' ti piace. Vabbè, la notizia era questa. Comunque, panico e paura su questo aereo. Salutiamo tutti i parlamentari. Sì, non sopravvissuti tutti. Mamma mia, miracolati. Miracolati. Infatti, faranno una cosa in Parlamento proprio per il miracolo. Se decidono o no, se era miracolo questo oppure no. Stermineranno un casino di lepre. Vaticano, sì. Ci sarà una rappresaglia nel mondo lepresco, leprario. Va bene, ci informano la radio che lo streaming è in ritardo. Sì, è un po' in ritardo. Infatti, se ti guardi mentre sì, non stai guardo, parlando, infatti. È meglio non guardare. Meglio non guardo perché mi sembra di essere troppo rincoglionito. A 4 secondi, non 4 è niente. Secondi. 4 secondi. Se io faccio così. 1, 2, 3, 4, ora è uscito, tipo, una cosa del genere. Vabbè, andiamo avanti. Che cosa ridicola. Dai, che vai, cosa continua ridicola. Tu, vai. Bene, i fogli, grazie. Prego, leggi. Allora, facciamo dire a tutti che leggiamo le notizie. Ah, ma è chiaro, ma una rinfrescatina. Vai, parti. Tu ci vai all'IKEA, Riccardo? Io spesso. L'IKEA è un posto. Spende poco. Quindi. L'IKEA è un posto meraviglioso. Si rubano matite. Poi c'è quel bagno per gli uomini. C'è quel bagno per gli uomini che è incredibile. Si rubano matite a Napoli. Cioè, sì. A Napoli quando vai all'IKEA non ci sono mai le matite e foglietti. No, la cosa più bella è il bagno degli uomini. Sì. In cui se hai un bambino appresso e non lo puoi lasciare da solo, praticamente lo appendi al muro. C'è una sorta di appendi bambino. Non ho mai visto questo. Te lo giuro. Faccio un bambino solo per andare a prenderlo dentro l'IKEA. Te lo giuro. Così non lo perdi di vista. Quindi monti anche il bambino. No, lo tieni là. Poi certo è un peccato. Sperando che il padre debba solo fare una piccola pipì. Perché se deve fare qualcosa di più non è che tieni il bambino incatenato. Comunque sì. L'IKEA di Napoli è un posto strano. Perché il fatto delle matite secondo me è bellissimo. Però a casa diverso. Ci siamo andati un sacco di volte insieme. Sì, facciamo di tutto. È divertente. Salutiamo l'IKEA. Se vuole venire qua. Vorrei ricordare quel terribile oggetto che Greppa ha fusolato come un'enorme supposta trasparente. La magnifica Greppa. Non so a che cosa serve. Ma io i nomi di IKEA sono bellissimi. Anzi, se il direttore generale dell'IKEA Napoli vuole venire qui in trasmissione per parlarci di Greppa e svelarci il mistero di Greppa. Se viene qui. La sua utilità. La sua io funzione. Mi prendo una piccola rivincita. Gli facciamo montare tutto. Tutto gli facciamo. Lui ci ha fatto montare il mondo. Noi facciamo montare la radio. Salutiamo, se vuole venire, benvenuto. Comunque, dai, che è successo? Allora, c'è stata una piccola rivolta. Sì, perché? A Corsico. Dove sia? Non lo sappiamo. Sinceramente non ne ho idea. Vabbè, Corsico, famosissimo, ridente cittadina. Vai, dici che è successo. Spero sia una ridente cittadina. Per favore, voi che siete online e ci state seguendo, se ci dite dove è Corsico ci fate un piacere, grazie. Sì, perfetto. Intanto dalla chat ci dicono che sembra che siamo davanti ad un ventilatore. Perché? Non ne ho idea, i soliti. È l'antipop. Signori, questo è l'antipop. Se non ci fosse questo, noi sembriamo dei calabresi che parlano tutti. Capito? Mamma mia. Serve. In Lombardia ci dice Schirru. Grazie, Schirru. Grazie, Schirru. Corsico è in Lombardia. Provincia di Milano. Guarda, funziona questa cosa. Sì. Vai. Praticamente hanno deciso di dare una limitazione alle persone che lavorano. I dirigenti di IKEA. Sì, una limitazione per la durata di abbi coraggio. Non so come spiegarla. Allora, se proprio ti scappa, sì. E devi fare pipì. Ah, è in bagno, andare sì, in bagno. Devi andare in bagno e ci devi stare per poco tempo. Ma perché? No, a parte che perché tu non potevi dire andare in bagno? No, mi vergognavo un po'. Perché siamo in diretta. Ma andare in bagno. Lo so. Quindi hanno cronometrato andare in bagno. Il tempo della pipì di una dipendente in particolare. Che aveva la pipì. Evidentemente ci andava spesso. Magari ci andava anche per fumare, non lo so. Vabbè, però. Vuoi sapere per sfizio chi ha creato questa regola? Che tempo ha scelto? Vorrei sapere, bro. Quanto se tempo. Se ci sono delle statistiche, soprattutto delle tabelle. L'Istat ha sempre qualche statistica particolare. Sicuro ce l'ha. I dipendenti dell'IKEA fanno la pipì più lunga di 45 secondi netti. Comunque 5 secondi netti lo devono montare, ci suggeriscono dalla regia. Questa era, vabbè, fammelo dire, non c'è male, non c'è male. Questo non c'è male anche in video, non c'è male. Rende. Vabbè, comunque è successo, hanno fatto una rivolta. Sì. Il diritto della pipì. Sì, per un'intera giornata praticamente si sono fermati. Hanno fatto bene. Ed hanno allestito un presidio fuori al negozio. E tu immagini dentro quelli che era tutta gente senza le persone che lavoravano là dentro. La pacchia. Immagino tutti i siglietti sui divani a guardare. Immagino tra l'altro un'intera giornata questi incontinenti dipendenti di Ikea, dove l'avranno fatto, guarda, la loro pipì. Guardi, magari il lato... intorno all'immenso stabile avranno marcato il territorio. Ma tu guardi sempre il lato, ma guarda il lato poetico di questi Ikea, prima di gente che la usa come casa, tutti seduti lì a leggere i libri in svedese. Ed ovviamente 40 minuti per fare una pipì. Molto bene. Andiamo avanti. Questa è molto diversa. Allora, una ragazzina di Milano. Vuoi sapere che faceva, Alessio? Che faceva? Guarda me. Sì. Allora, che faceva? Praticamente lei mandava foto di lei porno, ossia dove mostrava la beltà di tette, curi e tutto il resto. Sì. A chiunque le volesse in cambio di ricariche di cellulare. Sì. Allora, è partita da Milano e è riuscita a conquistare, un po' come gli Unni, gli Ostrogoti, mm-hmm, anche il Friuli e il Veneto. Così. Quindi, dal Friuli... Un'imprenditrice praticamente. A 13 anni. A 13 anni, quindi adesso, Sasi, oh, tu... se t'acchiappa Berlusconi, Sasi, tu adesso mi devi guardare... Subito ti offre un lavoro. Ah, madonna, però oggi il proprio Il ministro, galera. Per esempio. Tu mi guardi adesso, mi fai sì oppure no con la testa, se veramente tu avevi un'amica tredicenne che mandava foto porno per ricariche cellulari. Ecco, quindi no. Noi per vedere una ragazza di 10 anni nuda ce ne voleva. Cioè, diciamo che ci arrangiamo da noi. Cioè. Diciamo che 13 anni ho dovuto aspettare almeno altri 3 anni per vedere una donna nuda. Bravo, almeno altri 3 anni. No, altri 2, va, altri 2. Cioè, adesso. Altri 2, a posto. Ma una donna nuda dal vivo a 15 anni l'ho vista. A 14 no. Va bene, allora i carabinieri hanno trovato telefonini cellulari, chiavette USB e hard disk pieni di foto di questa puttanella. Scusate il termine, ma sicuramente non è una pudica. Non si può dire puttanella. No. In televisione si può dire, però, quindi ok. Puttanella. In radio non si può dire. Ah, in radio si dice meretrice. Allora, che succede? E succede che hanno trovato, tra l'altro, un monsignor di Castel Franco Veneto, che aveva vinto, grazie alle mille lune, a furia di queste ricariche a questa tredicenne, di tutto. Cellulari, 15 cellulari, 25 chiavette per andare su internet. Tra l'altro aveva queste foto a posto dei santini, io l'ho visto, dava a posto della santina di Padre Pio, si dava la santina della tredicenne, No, volevo dire, allora, Paolo Petrella ci dice... Dici. Che ci seguirà soltanto se evitiamo di metterci in controluce. Paolo, ma qui ci stanno dicendo che ci vedono bene. Ci vedono bene, Paolo. Paolo, ma tu ogni voto, la registrazione dell'altra volta non andava bene. Questa volta in controluce, ma chiediamo tu... Chiediamo anche... Ci stai scrivendo per ci rompere, non lo so. Infatti chiediamo un attimo, loro ci dicono così, aspetta, prima di cambiare, per favore quelli là che ci stanno seguendo su live streaming... E ci dà anche degli ignoranti, ma noi per questo ti vogliamo bene. Dateci un'informazione, voi come ci vedete? Controluce, dobbiamo chiudere la finestra, se volete lo facciamo, perché noi siamo al volo, senza problemi. Chiudete la finestra, chiudiamo la finestra, per favore chiudiamo la finestra. Magicamente la finestra si chiuderà. Attenzione, sim, sala, ce la puoi fare. Attenzione, quando lo dico io si è bloccato, tirati su. No, non ce la fa. Il gioco di magia alle volte non escono, e questo è chiaro. Ma ecco. Allora, Paolo Petrella ci scrive: ignoranti, si vede il Padre Eterno dietro di voi. E io vorrei dirgli: abbiamo fatto qualche tentativo, ci sembrava che si vedesse bene. Vabbè, magari non è così. Grazie per la segnalazione, Paolo. Grazie. Va bene, salutiamo ancora quelli là che stanno online. Ricordate che potete contattarci su livestream.com/radio2010. Sì, se io non riuscirei mai a dirla questa quando cosa l'ho detto, mi hai guardato con la faccia, vuol dire: oh mio Dio, ti stimo tantissimo. Dai, io non ci sarei avanti, mai riuscito. Andiamo avanti, parliamo sempre di collegato le bambine, dato che oggi vogliamo proprio andare in galera. Sì, sì. La notizia di dopo, tu dovessi saperla, tu dovessi dirla tu, guarda lì la notizia, dovessi dire oggi qual è. Ah, sì, perfetto. Oggi tu veramente, allora, non ci sei. Allora, no, sto... tu perché non sai che cosa vuol dire controllare i messaggi, rispondere alle... Sì, però non controlli. No, adesso tu sei affascinato delle luci della ribalta. Vai avanti. La notizia di oggi parla di Berlusconi, il nostro premier. Nostro, diciamo, italiani. Nostro, magari non moralmente. Se tu riesci a prendere notizie in tempo, io magari non devo divagare con la voce mentre tu cerchi. Allora, piacere, Washington. Ecco, mettiamo un'altra informazione. A Washington. Berlusconi è rimasto praticamente fermo. Dove? Da solo. Dove? Cioè, accompagnato dalla sua security, al Washington Convention Center. Sì. Ad attendere la macchina che doveva venire a prendere. Cioè, fuori al Washington Convention Center. È rimasto fermo lì da solo. Così. Così. E perché la macchina ha fatto ritardo. L'autista ora, è stato fustigato. C'è chi dice 40 minuti. C'è chi dice 20 minuti. Insomma, non si capisce questo quanto è rimasto. L'autista che fine ha fatto, secondo te? Non c'è scritto. È morto. La cosa veramente importante è che Berlusconi addirittura ad un certo punto avrebbe detto: vado a piedi. Ma chi? Lui. Ma guarda, facissimo con l'appero ogni tanto. Camminiamo con le proprie. Poi ovviamente Sasi Borghese ci dice con i tacchi è anche abbastanza. Infatti anch'io lo stavo pensando. È anche abbastanza complicato. È complicato. Salutiamo la nona Minucci che è appena arrivata. Io ciao, voglio salutarla. Ciao la nona, ciao. Allora, basta, non devo dire più niente. Questo proprio Berlusconi che deve aspettare come comuni mortali. Ma che ce ne frega poi così? Mica che frega così tanto questo Berlusconi. No, andiamo avanti. Prendiamo uno di quell'ambiente. Allora, l'altra dichiarazione importante. Importantissima, come no? Facevamo riferimento all'inizio della trasmissione. È una frase di Bocchino. Come no? Famosissimo. Bocchino. Quante volte da piccolo cercavo di farmi fare. Ah, no, stiamo andando. Questa era terribile. Questa veramente è da censura. Vabbè. Da censura piena. Vabbè, adesso, ma quello così è. Dai. Leggiamo i messaggi. Ma qua stanno. Ok. Ci dicono ovviamente: voleva andare a piedi, tanto là nessuno sa. E Mister Spaccato dice: ma che? E Loris ovviamente aggiunge: sì, non sai quanto sputazza. Sapigliava. Così, Okay. E poi c'è un altro commento dopo che non leggeremo. Non si può leggere. Riguardo Bocchino, perché comunque. Peggio di quello che ho detto io, tra l'altro. Molto peggio. Molto peggio. Molto peggio. Salutiamo Mister Spaccato. Un bacio, Mister Spaccato. Vai. Bene. Bocchino avrebbe detto: sì, ad un premio. Bocchino devi partire. Sì, Bocchino. Ma il deputato. Allora, il deputato. L'articolo del mattino recita così: Bocchino, due punti. Sì. Io così lo leggi dopo. Bocchino. Sì, a un premier gay. Se eletto dagli italiani, no a un leghista di parte. E questa è frattura, secondo me. È frattura anche perché uno preferisce un gay a un leghista. Cioè, che per me non c'è, cioè, non c'è dubbio. Però la cosa bella, sai cos'è? E tu pensi a un paragonare leghista, anche tra l'altro le due figure. Sì, appunto. Come se fosse come se non esistesse un leghista omosessuale. Allora, infatti, Bocchino, noi siamo sicuri. Lo ripeterò di nuovo così, giusto per l'ilarità generale. Bocchino, sì. Noi sappiamo che tu riuscirai a venire a patti con la tua fede, con questa tua fede, nel momento in cui si presenterà. Ma tu hai nel momento Bocchino, tu lo sai che riuscirai a venire a patti quando finalmente un leghista si presenterà omosessuale. Non so perché io punterei molto sul figlio di Bossi. L'ho visto in qualche fotografia. L'ho visto in qualche fotografia. Siamo in diretta, giochiamoci il tutto per tutto. Sì, ma andiamo in galera così, dritti per dritti. Ma il figlio di Bossi, secondo te, viene a rompere le palle a noi? Noi non siamo nessuno. Lui guadagna già 11.000 euro al mese. Perché? Fare che? È perché è entrato nel comune. Dove? Là, a Brescia, tipo. Cosa? Al consiglio regionale. A chi? Bossi, il figlio di Bossi. Ah, cioè, sì. Sì. Intelligente? No, intelligente non lo so. È normale. Con un padre così penso che un po' di problemi ce l'abbia. Sì, sì. Va bene, il padre che ce l'ha sempre duro. Sarebbe essere un problema comunque. Andiamo avanti. Allora, la notizia ancora. Ah, tocca a me, notizia mia. Questa sì, è bellissima. Proprio tua, proprio. Allora, parlo di una dei tuoi miti. Della tua adolescenza, da giovane fanciulla, in pieno fase premestruale, credo. La mitica Britney Spears. Che so che tu ti vestivi anche tu come una scolaretta, no. E cantavi If You Baby One More Time, una cosa del genere. Ma andavi per la scuola di fuorigrotta tutti quanti insieme, come no, lo so benissimo. Non proprio così. Allora, prima di tutto voglio dire una cosa. Sono appena arrivate le gocciole che Alessio mangia tantissimo. Non mangiare in radio, siamo pure in diretta. Questa facciamo volta le figure di questa me. Volta no. Vabbè. Che succede? Britney Spears, no, facciamo andare via queste gocce, quello le mangia ed è pericolosissimo. Allora, che è successo? Britney Spears ha completamente controcorrente. Cosa ha fatto? Ha detto di essere contraria all'utilizzo di Photoshop. E per questo motivo ha preso e ha mostrato una sua foto che era stata ritoccata. Quindi in una foto lei è Barbie, nella foto dopo è Rosy Bindi. Sì, ma non proprio Rosy Bindi, Rosy Bindi siamo a dei... Rosy Bindi quando era ancora donna. Poi dopo è successo un incidente. Dai. E comunque che succede? Succede che ha fatto vedere, è sempre una bella donna. Però diciamo che ultimamente si è un po' lasciato andare e diciamo che sembra in condizioni pietose. Lei l'ha fatto vedere che ormai è solo bisogno di Photoshop, la mitica Britney Spears. Andiamo avanti e qua dobbiamo prenderci gli allori. Per forza. Perché noi la settimana scorsa, non so se vi ricordate, abbiamo parlato di Ricky Martin, che aveva fatto outing, cioè aveva detto che era omosessuale per la non felicità di alcune donne, soprattutto del nostro staff. Che succede? Noi avevamo sospettato che questa fosse più una mossa pubblicitaria che un outing morale. No, vabbè, quello è gay, veramente. Sì. Ci però, marciano sopra, però è gay. Ci ha marciato, diciamo, perché? Perché Ricky Martin aveva avuto un calo, non del desiderio, ma un calo, diciamo così, di fans. Sì, di fans. Di fans. E allora che ha fatto? Ha fatto, l'ha trovata pubblicità e ha detto, vabbè, visto che ormai lo sospettano tutti che io sono omosessuale, diciamolo a tutti e facciamo un po' di business. E così è stato, lui l'ha fatto per tirarsi su. E ci sono su... riusciti. Ci sono riusciti e noi l'abbiamo sgamati prima di tutti. Era un'ipotesi abbastanza prevedibile. Grazie, però effettivamente, cioè, mi viene da chiedere, potremmo fare i giornalisti di Repubblica. Come no, certo. Perché l'articolo... Al mattino, posso fare al mattino? Al mattino poi non ne parliamo proprio. Al mattino ci cercano. È come sparare sulla Croce Rossa. Ci cercano proprio. Al mattino. Allora, che succede? Questa è la notizia più bella del mondo, l'ultima. Sì. Allora, hanno inventato una rivista porno per i ciechi. Ah, questa non... In Braille. Aveva fatto in un film Mel Brooks, mi sa. Allora, mo te lo spiego. Allora, si tratta di 17 immagini in rilievo. Sì. Che costa 170 euro, 10 euro a immagine. Se venite da me ve li scolpisco nella creta e sì, riusciamo a fare un prezzo di favore. Che succede? Si vedono queste donne... Un 5 euro a tavoletta, va? Donne e uomini in mezzo busto, in rilievo, sì, in argento, e sembrano... È presente quei... per fare i dolci, tipo i budini, gli sì, stampini, quella fatta sì, di latta. E tale qua. Sì. E tu tocchi queste cose, scusate il gesto in televisione, tocchi queste cose, terribile. E poi tra l'altro mi chiedo un paio di cose, mi chiedo. Innanzitutto, se tocchi, poi il motivo per cui compare una rivista porno, c'è un motivo. Sì. No? Sì. Sai, quel fatto diventi cieco. Però. No, non l'accetto. Però, questo. Però, se tocchi, sì, poi. Cioè, come ti organizzi? No, non lo so, Ricca. Non lo so. Con quale mano? No, alzo le mani su questa discussione. Cioè, come ti... Non so che dirti. È la prima domanda. La seconda è che voglio parlare con i ciechi. Voi ascoltatori della radio. Allora, voi ascoltatori della radio. Ma 170 euro per toccare delle formine mi sembra eccessivo. Toccate una lavatrice Indesit, che magari un lavandino, che è quel fisico da mandolino, sai, il fisico mediterraneo. Diciamo che una pentola a pressione che se, potrebbe essere più se bella. Se effettivamente può servire, siamo contenti. Ma io serve, io penserei di più al discorso dei 170 euro. Cioè, appunto. Ma è tantissimo. 10 euro a foto, ma che? Che l'ha scolpito Michelangelo. Cioè, siamo usciti pazzi. Comunque io la comprerò una copia, perché così che sfizio. Spenderò dei soldi, proprio mi fa piacere spenderli. Abbiamo finito le notizie di oggi, credo di sì. Leggiamo un altro paio di messaggi sono arrivati. Buonasera ai DJ che innanzitutto si lanciano in una discussione su Bocchino. Leggo anche Mister Spaccato che ci scrive: Mara Carfagna Premier. Chi direbbe però di no? C'è Loris che dice che 170 euro potrebbero essere spesi meglio. Sicuramente. Meglio anche per quelle attività, diciamo sì, così, erotiche. Non diciamo dove, comunque strade statali qua vicino a noi. Poi prima mi hanno scritto Ale e Ricci, amore per sempre. Qualcuno? E grazie. Poi Jenny diceva vendo calchi di Alessio a 3,50 euro. Quindi... ci sei rimasto male, pensavi che era 350. Sì, mi dispiace, pensavo fossero 300, pensavo cioè, di valere un po' di più. Però, costi vabbè, meno di un pacchetto di Camel. Va bene così. Sì. Dopo che mi hai detto questa... Vabbè, sentiamo una canzone. Chi sentiamo oggi? Antonio Raia. Sì. Lui è un po' l'istrumentista sassofonista in suona origine, un po' di però tutto. Scrive sì, e suona un po' di tutto. La canzone si chiama? La canzone si chiama Annulla le distanze, fa parte di un suo progetto sì, che spazia tra canzone e teatro. Ah, sentiamoli. A dopo. We'll be right back. riesce ancor meno, ed ogni cosa diventa un poco qualunque. Non riesco a capire un bambino soldato, un ricchione pentito ed un politico salvato. Non riesco a capire un bambino soldato, un ricchione pentito ed un politico salvato. Annulla le distanze e fa attenzione al vicino. Annulla le distanze e fa attenzione al vicino. Annulla le distanze e fa attenzione al vicino. Intanto piove, sangue amaro, sangue nero, sangue vano, sangue vero, sangue amaro, sangue nero, sangue vano, sangue vero, sangue amaro, sangue nero, sangue vano, sangue vero, sangue amaro, sangue nero. A finire, di storie distrutte da ogni avvenire. C'è chi sopporta la luna e odia suo figlio, chi abbandona se stesso per non accettare un consiglio. Annulla le distanze e fa attenzione al vicino. Annulla le distanze e fa attenzione al vicino. Annulla le distanze e fa attenzione al vicino. Perfetto, abbiamo sentito Antonio Raia, molto bello, mi è piaciuto molto, ti è piaciuto? Sì, sì, speriamo di poterlo intervistare. Sì, noi abbiamo un programma proprio per questo, fatto per questo. Speriamo, speriamo che venga e potremo ascoltare. Oh, è arrivato il caffè. Ma secondo è arrivato me il caffè. Questo è il momento di introdurre anche la nostra cara amica per par condicio prima dalla... Venga, signorina, dalla venga, regia venga. Ci dicevano, dalla regia ci dicevano, è il caso forse che per un po' di par condicio... Poi par condicio non c'entra niente, chi è che mi ha scritto sto messaggio? Per le quote rosa, diciamo. Per le quote rosa, che sono... Eccola qui, lei è Leonora. Eccola, eccola, facciamo vedere così. Eccola la nostra, qui. La nostra voce l'abbiamo che prepara anche il caffè. Se è in ritardo di 4 secondi, perché tu lo sappia, ah, per questo motivo. Io non mi vedevo. È andata nel panico lei. Sì, noi non la paghiamo per portarci il caffè. L'abbiamo presa per questo motivo. Grazie mille. Prego. Diciamo che lei è raccomandata. Molto raccomandata. È raccomandatissima, perché anche noi, come va il mondo del lavoro oggi, prendiamo solo le raccomandate. E lei è raccomandata da un nostro tecnico, Fabio. È la sua ragazza, è dai, la sua, ragazza. E quindi noi abbiamo usufruito, abbiamo un po' di tua acqua, posso? Grazie. Grazie, bello. L'acqua, l'amica del pompino. Poi ci scrivono... Che pericoloso, Fabio, sì, molto. Con l'acqua no, in poi bocca. Poi soprattutto ci scrivono Alessio e Ricci, amore per sempre, beviamo dallo stesso bicchiere. Sai com'è. Sono arguti però, sono sai attenti e arguti. Ah, Andrea Policastro, lo salutiamo, dice evviva Eli, proprio come se fosse una vera ragazzina. Vedi, anche lui. Adesso lei incomincia a ridere, visto che siamo in diretta, non potremo mai più finirla ed è andata così. Basta, chiudiamo la trasmissione. Allora, ricordiamo che potete parlarci e scriverci su www.livestream.com/radio2010. Guarda che è veramente difficile dire questa cosa. Cioè, guarda, dopo te l'insegno, dopo te l'insegno. www.livestream.com/radio2010. No, niente .com. .com, sì, ho scherzato. Vabbè, vogliamo l'altra volta. Noi ci siamo. Abbiamo una persona che non conosciamo in chat. Ciao, John Locke. Magari non lo conosci. Chi sei? Alessio. Dici chi sei. John Locke, come no, famosissimo qua dietro. Non lo so chi è. Comunque, salutiamo John Locke. Uè, ci saluta. Ma chi sei? Ti conosciamo? Sono io, Alessio. Sono io, vabbè, Alessio. Alessio è proprio un impazzire, non fa niente, chiunque sia. Questo è uno scherzo. So questo che è uno scherzo. Sì, sì, dalla regia mi dicono di dire un nome che non farò mai. Andiamo avanti, dai. Va bene, andiamo avanti. Che succede? Noi in realtà siamo collegati con Radio Revolution. Sì, Radio Revolution. Con la radio un po', diciamo, filopolitica. Sì, una diretta. Radio di sinistra. Di sinistra, che noi conosciamo moltissime, molto simili. Sì, diciamo, sì, siamo con... In Campania è pieno, comunque. In Campania è pieno, sì. E noi siamo collegati, ci siamo divertiti tantissimo l'altra volta, io voglio ancora sentire... Sì, ma perché lui è un personaggio simpaticissimo. Ricordiamo, si chiama J.J. Guevara. DJ J.J. Guevara. Oppure detto DJ Guevara. DJ Guevara, sì. Tutto questo genere di parole, sono intelligentissimi loro. Ricolleghiamoci un'altra volta a questa radio perché voglio sentire un po' come sta andando, va bene? Sì, certo. Scolleghiamoci e vediamo un po'. Colleghiamoci con la radio, per favore regia, collegateci. Eccolo. Io sorseggio caffè, mentre lo ascoltiamo. La musica è quella giusta. Ma questo è un altro disco meraviglioso, però. Allora, ragazzi, buonasera. Stiamo parlando. Riattacchiamo adesso. Abbiamo avuto due o tre problemi un po' tecnici, un po' frizzanti, un po' di problemi. Frizzanti. Solo che cerchiamo sempre di risolverli perché siamo una radio un po' a conduzione familiare. Grande, cosa vuol dire? Niente, comunque siamo qui per di nuovo per voi, sentiamo questo grandissimo pezzo. Pezzo che è proprio un pezzone, non è un pezzino, proprio un pozzone. Sai quando tu, quando tu vai a da signore e fai signore, ma dato un pozzone. Ma da chi? E che lo tombo la plancia 50. Così più o meno, no, il pezzone, però questo è musicale. Ma li chiamiamo oggi oppure? Allora, noi certo, come al solito, aspettiamo. Allora, oggi cosa. Abbiamo due o tre chicche con noi. Allora, abbiamo un nostro amico strettissimo e carissimo che mi aiuterà. Ah, non è più da solo. A questa condurre questa bagaria, diciamo, che sta Marcatel e tanto mezzo mare, così. Marcatel. Allora, io inviterei qui il nostro amico, vieni qua. C'è già sta carina orecchia. Vieni qua, vieni. Non ti preoccupare, stai in mezzo all'amicizia. Chi sta? Cioè, nel frattempo devo far rubare tiro. Buonasera a tutti gli ascoltatori da Mimmo Zedunga. Ah, Mimmo Zedunga, J.J. Guevara. Mimmo, tu, io, allora io lo dico, questa persona è grande. Ma grande, ma non grande come persona, è proprio rosso, è 280 kg. Faccio... È proprio enorme, enorme. 280 kg di uomo. Allora, tutta questa grossa amicizia con Mimmo Zedunga è nata perché una volta noi ci trovavamo in una situazione un po' strana, un po' così. Noi stavamo in piazza a protestare. Sempre, loro sempre e protestano. In pratica è successo che mentre protestavamo ci siamo trovati innanzi un guardio. Un guardio, cos'è? Che in pratica è venuto. Penso uno sbirro. Uno sbirro. E in pratica, noi abbiamo... Diciamo così, è nato un diverbio, una discussione. Comunque ci hanno chiamato tutto, parlato buffo, tu non te lo dico proprio. Hanno picchiato un poliziotto. In un momento tragico è arrivato. È arrivato questa montagna d'uomo, quest'uomo immenso. Che mi ha pigliata in da saitella e mi ha portato. Cioè, l'ha aiutato praticamente. L'ha salvato. E io guardandolo proprio stile fatto come a me, lo dico proprio, ma capricci, dico, oh, allora, sai, ma come ti chiami? E lui mi guarda Mimmo Zedunga. Con una voce tra l'altro. Quindi tu pensi, chiamiamoli, dai, chiamiamoli. Allora, non vi dico altre aspettiamo cose che ci capiteranno oggi, perché abbiamo una grande amica di braccio. Noi non diciamo chi è? Perché la faremo venire se vuole. Mo sta in un bagno con Michele. Le donne con Michele. Già sapevo. Bung the bang. Ma comunque, questa radio è terribile. Se vogliamo aprire le telefonate. Ma sei tu. Chiamiamo. Apri le telefonate. Apri tutto. Apri. Telefono è aperto. Aprite le linee. Aprite tutti quanti voi. Chiamate. Allora, c'è pronto? Qualche telefono. Pronto, subito, sì, pronto. Pronto, buonasera. Sì, chi è? siamo Alessio Strazzullo e Riccardo Cremona da Radio 2010. Pronti. Ci siamo sentiti l'altra volta, non si ricorda. Ma voi siete una ma fammi capire, voi siete una radio. Noi siamo Radio 2010. Ma non mi chiamate a fare se sei una radio. Tu non puoi chiamare una radio a una radio. No, se no vai in conflitto di interessi. Per fare un gemellaggio. Gli interessi non collimano. Noi vogliamo fare un gemellaggio fra di noi. Ma sono uno scorpione, come fa un gemellaggio? No, è un modo di dire. Ma prendesse Rutan. No, vogliamo unirci. No, vogliamo unirci come radio perché noi siamo un po' diversi da voi, diciamo così, e vogliamo unirci. C'è che vanno, non si è mai unito a nessuno. Vabbè, lei comunismo, tutti insieme, compagni. Non vuole... Ma io che ne so voi che compagni siete? No, allora, un attimo solo. Vai adesso. Anzi, noi vogliamo soltanto interagire con voi perché ci piace questo modo di interagire. Parlare, discutere, i grandi mezzi di comunicazione come internet ci permettono di sentirci, parliamoci, no? Che fate voi? Ma ci potremmo sentire pure per telefono. Io non viene a trovare, forse è andata sulle le caffè. Ma no, perché noi siamo in diretta. Questa è una critica alla società. Sì, lo so. Noi siamo in diretta adesso. Noi siamo rivoluzionari, che significa? Che vuol dire? Nel senso, noi ci teniamo. Il popolo si deve ribellare. Ma noi ci teniamo a fare la diretta con voi, a intervistarvi. Ah, Urici, tu sai che non sa. Ma non è vero. Per esempio, noi oggi abbiamo parlato di un caso, vogliamo dirci, dobbiamo sapere cosa pensano anche altre radio. Mi sa fa pure gli esattori. Cioè, che cosa pensate di Bocchino, per esempio? Bocchino. Si è fatto bene. Ha rovato tutto questo. No, il deputato. Il deputato Bocchino. Aspetta, cioè, ci vuole fare ricerca a me perché sono che esperto in molti cose. Ma amore di Dio, sai? O Bocchino deputato significa che questa è una critica molto spietata che stiamo facendo a quelli che con i soldi nostri si fanno in certi posti e sfruttano la loro posizione per certe prestazioni. No, noi stiamo... dobbiamo, come dire, ce le dobbiamo sudare. Mimmo, noi parliamo dell'onorevole, il deputato è un uomo, il cognome è Bocchino, non è una pratica sessuale. Mimmo, io quando sono mi cagna magliette. È di destra, prego. È di destra, è un deputato di destra. Allora andiamo contro! Esatto. Basta dire questo. Esatto. È uno schifo, ce l'hanno fatti. Ma sanno via una parte. Ma avete anche delle donne in studio, sento, in studio. Dove parlate voi? Allo scantinato, giusto? Conto, abbiamo qui una grande amica. Se vuole venire ci fa il piacere di venire a trovarci. Chi è? Ma chi è? Io l'ho riconosciuta. Pronto? Pronto? No. Ma sei spaccato, bro. Ma questa è lei, là. È lei. Ma voi avete Meg in studio? E voi e tu ne dici co? No, noi teniamo. Noi teniamo Eleonora. Noi teniamo Eleonora e voi avete Meg. Fateci scambiare due parole con un artista del genere. Ma che quella. Aspetta, ma dopo quando ce l'hai? Ma siamo radio libere, tutti. Non teniamo una lira. Io manca libertà, ci servono i soldi tutti l'anno. Dai. Ma perché voi guadagnate con la radio? No. Commento azzeccatissimo. Mi sembra un'ottima risposta. Infatti, non si guadagna con ste radio. Meg, ma che cosa ci fa lei lì? Lei è una grande artista. Stop the train. È giusto. Ah, lei vuole salire. È giusto. Però ha sempre questa voce un po' di. Mi piace assai a me. Sì, ma io ero molto fan. Non avevo dubbi. Ma io ma che stai dicendo? Ti chiama da me? A C'ha ragione. Allora, Gege Guevara e Mimmo Zedong. Che cosa ne pensate della situazione Emergency? Emergency. Io penso che era una bella canzone negli anni 90, spaccava in discoteche. Emergency, Billy Matter B. No, Emergency. No. Che non si connesse, perché tu sei troppo. Frate, ma lo puoi messo fatta stamattina? No, non sta parlando la fiction che fa con Pascai, che è l'aro medico. No. Guardi, non me l'ha seguito più quando è morto che lui volato che è lento. Ma che sta parlando? Ma voi siete pazzi. Allora, noi parliamo. Quando ha cominciato a fare quelli serio. I medici di Emergency, che sono stati accusati. L'associazione umanitaria. Essere delle spie. l'associazione umanitaria. Ah, hai capito, sta parlando che lo film è 007. Oh. Spio. No, Gegè, ascoltami. Una nuova serie. Mimmo, ascoltami. Io assaggio di un laggiusto perché che sottotitolo non capisco niente. Ascoltami. Ragazzi, Stiamo calma e ordine. Stiamo parlando di una organizzazione umanitaria che è molto attiva. Siamo a Gino Strada. È filo comunista. È filo che? Filo comunista, compagno. No, compagno! La mano! Rivoluzione sempre. In realtà non è proprio così. Vabbè, non è però proprio così, però se per farvi capire le cose la dobbiamo mettere così, sempre. Mi sembra adesso, tutti guarda, io l'ho fatto difficile. Solo per questo motivo. Certo. Ormai certo. Loro devi o dire di qua o dire di là. Mi dispiace. Insomma, un po' di Emergency, la maglia allora, per farvi capire. Vi ricordate quella maglia bianca? L'avete vista a qualche manifestazione? Sicuramente con la E in rosso. È un petto. Ma come lo fate? Vedete come capisco? No. È rossa. È viva il rosso! Ecco qua, è ecco qua. Perfetto. Senza perfetto. Neanche una goccia di nero. E ballo no, il twist. Ecco. E ci stava bene. Una balla twist. Giusto. Un'altra ragazza che capisce i nostri pensieri. Hai visto? Capisce i pensieri. Quindi voi conoscete Emergency. Abbiamo capito, no? Ma come maglie rosse la faccio, Martello? No, quelle sono. Aiutando. No, quelle sono le maglie col simbolo comunista. Che poi posso dirci una cosa? Dico. A me, non lo so a te, ma sei tu, ma a me, onestamente, io ce la faccio pure che la faccio e chi lo Martello. Perché? Facciamo una bella maglia rosso. Ah, perché? Ma perché nera? No, perché già l'hanno mandato in stampa, no? È agitabile, vamoci questa cosa nera, facciamo la rivoluzione da dentro. Ma quello è il simbolo solo del colore. Solo maglie rosse, però, il rosso sta bene su tutto, sulle bionde, sulle scure, sui rasta. È una modificazione. Ma la utilizzi per giocare a caccetto che nessuno dice niente. È giusto. Ma è tunica, no? Ma Zedong è proprio chi ne di te? Non devono chiamare Mao Zedong. Mamma mia. No, comunque sono completamente pazzi. Sono completamente santone. E comunque, cosa ne pensate invece? Io oggi ho parlato la notizia di una lepre. Mao Zedong. No, io chiedi questa notizia. Sì, c'è stata la lepre che ha bloccato un aereo perché è finita nei motori. Dove dentro? Ma io poi voi dicito perché non sentiamo la radio vostra. Cioè, noi non sentiamo la radio vostra. Noi diciamo quello che accade. Poi di notizie un po' vaghe. E se accadono notizie un po' vaghe, non è colpa nostra. Noi diciamo quello che accade. E io voglio voi sapere. Voi dovete dire le cose serie. E questo voglio sapere la vostra opinione. Dimmi un'opinione seria su questo fatto. Una lepre è andata a finire in un motore di un aereo dove dentro c'erano parlamentari di PDL e Lega che si sono terrorizzati. Cosa ne pensate? Se si è bloccato un aeroporto per questo motivo? Quello che se. To così che non lei è così è proprio andata sì va da sola se mi fai rispondere a questa cosa perché io c'ho niente ma chi le copre chissà se ma lei parla così sono anche scocciato ma voi avete un ospite incredibile lì lo dovete sfruttare ma giù che le nasce croccone ma non cazzo fu molta roba in là ma catami ma noi teniamo la nonna Minucci e la dobbiamo cacciare poi cacciate Meg ma giù ma che se c'è robe scendi 50 patana se non vengono ogni volta che è proprio una mamma mia e comunque questa lepre fine mangiava meglio. Eccola. Adesso hanno messo il disco infatti in sottofondo. Potresti anche giusto, abbassarlo. Non mi sa mai bene niente. No, pure no. Gegè però. Gegè, il microfono è aperto. E che ci fanno? Studo. No, però se canti sopra. Comunque questa lepre mi sa che Mimmo Zedung va a dire qualcosa. Ma questo è il sintomo del giornalismo malato all'italiana. Perché? Perché se succede una cosa del genere con una lepre, eh? Non ti devi chiedere che cosa hanno pensato quelli che stavano dentro all'aereo. Devi perché? Chiedere, ma perché la lepre si butta sotto all'aereo? Ma che ha pensato lepre? Voi che l'avete domandato? C'era un problema. C'era un problema. Sì, sì, no, è che io mi faccio prendere. E non riesco a finire. Scalmati, Gegè. Capitalismo sta facendo soffrire le persone più povere, le persone più deboli e le lepri sono le prime a essere colpite da questo sistema malato. Ma no, ma c'è, e quindi? C'è e quindi la cosa che dovete mettere in discussione è perché la lepre si butta sotto all'aereo? Ma no, era una lepre che protestava. Scusate. Per una famiglia, una posfama. Io tra l'altro so che i conigli ci danno tutto parecchio. Io la domanda, conigli lepri la domanda che volevo porre. anziché giornalisti venduti, po'. Ma qui, anziché chiedere perché la lepre si è stata sotto l'aereo, la domanda era: questa lepre si poteva salvare? Cioè, la potevamo mandare in psicanalisi prima? Da ci poteva avere un po' di fatica? Ma che cosa con, sta con dicendo? Con carotini in più, no. Un po' insalata, questa è la domanda. Questi sono i temi su cui noi ci dobbiamo battere. Scusate. Scusate, non gallerie... battete donne, ma battiamo i temi. Quante ma gallerie popolari per la lepre ha scavato il governo da quando si è insediato? Pochissime. Quante gallerie popolari per la lepre? Io penso zero. Zero. Allora, vedi, sono lepri. Vedi che siete intelligenti quando sono roditori. Sono roditori. Leggiamo un paio di messaggi, dai. Yeah, così, leggiamo... così poi. Allora, scusate. Allora, vi scrivono. Noi siamo in diretta. Sì, abbiamo però stato occupando la linea. No, chiudiamo. Poi abbiamo dei messaggi per voi, per Gegè e per Mimmo. Leggiamo cosa dicono. Allora, ci dicono: Gegè, se vuoi un po' di fumo, c'è qualcuno qui sulla nostra chat che dice di potertene vendere un po'. Dipende a quanto. A quanto. Chiediamo intanto a quanto. Comunque il pezzo è quello. E poi, sempre la stessa persona dice che praticamente... dite a Gegè. Ah, dice che i comunisti si mangiano i bambini e per questo motivo li vota a destra. Ma io che le si mangiavano? Poi sono rimasto con un po' stomaco e siamo passati a mangiare un po' di frutto. Cosa? Ah, sono diventati più la dieta mediterranea del comunista. Dice a due. Che... A due. Cosa voglia dire? A due. Frate, si scende a uno e mezzo. A uno e mezzo. Già se potessi parlare. Perché comunque è poi ad essere roba seria. Ma in galera tutti quanti tutti, oggi in galera tutti, dopo infatti, il bocchino, cioè, la puttanella di 13 anni, i preti pedofili, adesso ci mettiamo a smerciare spaccio, fumo. Spaccio. È giusto. Stiamo parlando non di fumo, ovviamente. A 1,50 dice di no, scrive proprio così all'onudaret. E quindi così. Perfetto. Noi siamo pronti per la galera, tutto questo. Sì, tutto questo. Possiamo salutarli, io direi. Sì, li salutiamo, ragazzi. Signori, dai. Noi vi salutiamo. Sì, a risentirci sicuramente alla prossima diretta. Possiamo richiamarvi altre volte? Guarda, voi potete fare quello che vi pare. Tanto purtroppo il telefonato non le smisto io personalmente. Sì. E quindi se volete chiamare, voi chiamate e rispondiamo direttamente. Noi salutiamo DJ JJ Guevara e Mimmo Zetung. Rivoluzione sempre informata e resistente. Sempre informatica. Ha fatto rima. Rivoluzione informatica. Allora, una ha fatto informatica, l'altra ha fatto la rima. Resistente, informatica. È fantastico. Incredibile. Li salutiamo. Information. Ciao ragazzi. Ciao Meg, la prossima volta vieni da noi invece di andare da loro. Ma che cazzo, significa? Meg? Va bene, dai. Ciao. Comunque Meg è diventata pazza, secondo me. Sì, non lo so. Parla solo così ormai, per gorgheggi. Speriamo di poterla avere in radio. E niente, comunque siamo giunti alla fine. È stata dura. Durissima. Perché la diretta è dura. Durissima. Un po' ti è piaciuto che è stata dura? Non tantissimo, però. È stato complicato. Insomma, un messaggio veloce per tutti voi. Stiamo cercando di fare del nostro meglio. Ci proviamo. Aiutateci. Veniteci incontro. Grazie che ci avete ascoltato, perché è stato piacevole anche per noi. È stato divertente comunque. Sì. Colloquiare, diciamo così, con voi. Vi aspettiamo abbiamo in radio. Abbiamo fatto delle nostre facce che diciamo che non è che siamo proprio bellissimi. Però siamo belli dentro. Però ci stiamo impegnando. Mo già la settimana prossima andiamo a fare una lampada così. Attenzione, ci dicono Why you sit here? Questo è Mister Spaccato. Non poteva dire altro. Siamo fedeli di noi stessi. Salutiamo tutti quanti. Allora salutiamo tutti. Allora Alessandro, Jenny, Giovanni, Loris, Fabrizio, John Locke, che credo leggendo chi è. No, so chi è. Va bene, Fabrizio, che è il nostro collega anche, quindi salutiamo Schirru. Ciao Schirru, anche se non ci sta seguendo offeso, più. Hai offeso, sei una merda, sappilo, però vabbè, ti saluto ma comunque. Schirru è fatto così, dai. No, non vuol dire niente, perché è fatto la così. Schirru, non appena fai un live, ma do che ti combino. Hai visto che assomiglia a Schirru? A chi assomiglia? A Wolverine. Un po' così. Somiglia un po' a Wolverine. A Hugh Jackman. Poi salutiamo Eleonora, grazie per il caffè, Fernanda, detta Nando, Salvatore Borghese e Corrado Parisi, il nostro DJ. Salutaci DJ. DJ, dai, un saluto. Buonasera! E ovviamente salutiamo colui il quale c'ha la regia Fabio Mirà. Per ultimo, anche perché per prima abbiamo salutato la tua raccomandata. Devi ringraziarci che l'abbiamo presa. Non è che sappia fare vieni molto qua, sta ragazza. Fatti vedere dalla fatti gente. Vedere, vieni qua. Fatti vedere. È timido. Non è vero, è finto timido. Eccolo qua. Guardate quanto è carino. Aspetta è un finto che adesso timido. Compari. Eccoti qua. È un finto timido. Eccoti là. Ti sei pure visto. Mo' sei rimasto in video. Intanto. Basta comunque la ragazza, diciamo, non sa fare un cazzo. Però noi la teniamo comunque. Salutiamo Andrea Policastro che ci ha scritto dicendo: wow, Meg spacca. Grande, salutiamo anche Meg. Se anche ci vuole Meg, solo venire qui. Meg, sei invitata. Infatti, tutti, potrai venire. Poi in questa cazzo di radio non viene mai nessuno. Ma però... tu pensa se venissero tutti? Una mucchiata pazzesca. Una mischia Francesca. Prima o poi qualcuno verrà. Salutiamo Paolo Petella che rompe i coglioni sempre. Ciao Paolo, ti vogliamo un sei sacco. Simpaticissimo. Di bere. E da Riccardo Cremona e adesso Stazzullo. Siate curiosi. È tutto. No. Okay. No. Non capisco. No, perché tu hai detto i due nomi, ho detto è tutto, perché non sapevo che dire. Ciao, siate ciao, curiosi. Ciao. Ciao. Dieci.